La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Ya tenía pantalones largos, pero recién estrenados. Tenía, me acuerdo, 14 años recién cumplidos. Portavo già i pantaloni lunghi, certo, però ero ancora un ragazzino. Avevo 14 anni appena compiuti quando mandai una caricatura a Don Emilio Frugoni, che era il direttore del settimanale socialista che si chiamava Il Sol. E lui me la pubblicò. Pubblicò la prima caricatura, poi la seconda, e da lì ho cominciato. Ho cominciato giocando. Il giornalismo era lì. Io avrei dovuto fare tanta strada ancora, però da quel momento divenni abitante di questa casa magica che è il giornalismo. Siamo nati mica ieri, capataz. Non siamo nati mica ieri. È la sua prima volta. A soli 14 anni, nella camera di una casa modesta a Montevideo in Uruguay, Edoardo Galeano, quello che diverrà uno tra i più grandi narratori dell'America Latina, scriverà il suo primo testo. È un fumetto politico. Sarà comperato da un giornale socialista uruguascio. Non sa Galeano che da quel giorno la sua vita sarà segnata per sempre. L'Uruguay, in cui cresce Galeano, è un paese povero, un paese dove presto la dittatura prenderà il posto della democrazia. Per ora, però, Galeano è un ragazzino che ha assaporato il gusto di una magia, come dirà lui, quella di scrivere storie. Una magia che a Galeano viene semplice e perfetta ogni volta. Un talento naturale che, come dirà Isabella Allende, rapisce chi legge. Conosco di persona Edoardo Galeano. È capace di produrre, senza sforzo apparente, un flusso interminabile di storie. È questo talento quasi soprannaturale nel raccontare, a rendere così facile la lettura. C'è una forza misteriosa nella narrazione di Galeano. Usa la sua arte per introdursi nella privacy della mente del lettore, persuaderlo a leggere e continuare fino alla fine, a soccombere al fascino della sua scrittura e al vigore del suo idealismo. Quella di Galeano è una storia lunga, tortuosa, non sempre facile. La sua forza, come diranno gli amici, è il suo bisogno continuo di riportare i piedi a terra, il bisogno di fare in modo che la gente comune abbia uno spazio nella letteratura. La letteratura è la vita quotidiana, fatta di gesti piccoli, pieni di significati magici. La vita quotidiana, cose apparentemente... Io ho sempre sentito che andava raccontata la vita quotidiana, cose apparentemente insignificanti, che in realtà sono piene di significati, perché contengono una magia che vorrei condividere con gli altri. Una magia che arriva proprio dalla vita quotidiana, che è lì, sotto i nostri occhi, e che noi non vediamo perché siamo ciechi della luce del mondo. Galeano non smetterà mai di scrivere. Aveva in testa un'idea chiara già dal suo esordio. Era quella di mettersi, come dice lui stesso, al servizio dei perdenti. Una passione per i non ascoltati, per gli umiliati. Sono loro, dice, quelli che hanno davvero qualcosa da raccontare. Sentì che io stavo dal lato di quelli che perdevano. Sentii subito che stavo dal lato dei perdenti, però non lo capivo fino in fondo all'inizio. Soltanto con gli anni riuscii ad organizzarmi meglio, a mettere anche la ragione al posto del cuore, pur di difendere queste persone. La ragione mi ha permesso di spiegare questo mondo. Io sono arrivato alla conclusione che questa mia passione per i non ascoltati, per i perdenti, per gli umiliati, per i disprezzati, proviene dalla sofferenza che io stesso provai da bambino, dalla gente che mi circondava, che credeva di non avere più nulla di interessante da dire. Proviene del fatto che io desde temprano sospeché che erano esos los que tenían algo interesante que decir. Delle persone povere, sconfitte dalla vita, è piena la memoria di Galeano. I miei amici di gioventù erano operai e minatori, contadini poverissimi e analfabeti. Sono quasi tutti morti giovani e disperati, sognando la libertà, il mare che molti di loro non videro mai, con le speranze consumate troppo presto in una vita di stenti e di sfruttamento brutale. Con la gioventù e le speranze di giustizia, a cui i miei primi compagni fu sottratto anche il diritto sacrosanto di diventare vecchi. Anche il giovane Galeano dovrà affrontare un percorso che non sarà lineare. Per il ragazzo nato a Montevideo il 3 settembre del 40 la strada è lunga e spesso faticosa. Farà l'operaio in una fabbrica di insetticida, il pittore di insegne, il fattorino, il dattilografo, anche il cassiere di una banca, il venditore viandante per le vie dell'America Latina. Un viaggio che tornerà con forza nel capolavoro Le vene aperte dell'America Latina. La forza, dirà Galeano, è la memoria. Lo confermerà anche il suo amico e premio Nobel per la pace, Ignazio Esquivel. Un mio vecchio amico un giorno mi disse che i suoi nonni gli insegnarono una cosa che neanche tu devi mai dimenticare. Se non sai dove stai andando, torna indietro per sapere da dove vieni. Perché se non sai da dove vieni, qual è la tua identità, le tue radici? Non partire. No, perché se non sai da dove vieni, qual è la tua identità, le tue radici, nos perdemos. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Esperienze che si avvolgono attorno a Galeano e che lo permeano di una concretezza severa, uno stile preciso e puntiglioso, che lo trasformerà in uno degli scrittori più famosi e amati al mondo. Giornalista prima, scrittore poi, Galeano pubblicherà capolavori come Le vene aperte dell'America Latina, Memoria del fuoco, Un incerto stato di grazia, Parole in cammino, Splendori e miserie del gioco del calcio. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra... Le contraddizioni devastanti, la violenza più atroce e le passioni più intense, così appare agli occhi di Galeano il mondo, una terra dove il centro, per paradosso, è il gioco del calcio. Mino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Tutto è inizio lì, e lì con ogni probabilità tutto ha una fine. Il calcio diventa metafora della vita. Galeano, Soriano e molti altri scrittori sudamericani sceglieranno il campo di football per raccontare miserie e virtù delle loro nazioni. Mino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento e allora... mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'area, tirò senza guardare e il portiere lo fece passare. La prima volta. Edoardo Galeano, un ragazzo uruguaiano, figlio di una modesta famiglia di tradizione cattolica, vuole fare il giornalista. Dice di volerlo fare per dare voce agli ultimi. A casa pochi gli danno credito. A 14 anni però pubblica il suo primo articolo. Galeano farà numerosi lavori prima di giungere a vivere di solo giornalismo. E anche allora non dimenticherà mai gli ultimi, i nessuno, come li chiama in questa straziante poesia. Le pulci sognano di comprarsi un cane. E i nessuno sognano di non essere più poveri, che un magico giorno piova all'improvviso la fortuna, che cada dal cielo la fortuna. Però la fortuna non piove né ieri, né oggi, né domani, né mai. E neppure piovigina la fortuna, per quanto i nessuno la chiamino, e per quanto gli punga la mano sinistra, o si sveglino col piede destro, o comincino la giornata cambiando la scopa. I figli di nessuno, i padroni di niente, i niente, i nessuno, i ridotti a nessuno. Correndo dietro all'impossibile, morendo la vita, fottuti e rifottuti, che non sono, anche se esistono, che non parlano lingue, ma dialetti, che non professano religioni, ma superstizioni, che non fanno arte, ma artigianato, che non producono cultura, ma folklore, che non sono esseri umani, ma risorse umane, che non hanno un volto, ma braccia, che non hanno un nome, ma hanno un numero, che non figurano nella storia universale, ma nella cronaca nera della stampa locale, che costano meno della pallottola che li ammazza. La L'America Latina in cui cresce professionalmente Galeano è fatta di fermenti fortissimi e una serie di dittature che stanno cominciando ad esercitare i muscoli. In Cile, il generale Augusto Pinochet sta cominciando ad affilare le armi. In un clima sempre più surreale, caratterizzato da una grave crisi economica, parla il premier Allende. Ultimo discorso a una nazione che, come dirà Allende, sta per perdere la democrazia. Se proponía el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático, el desorden social, crear el pánico en la población para que al ser sobrepasado el gobierno, las fuerzas armadas fueran impulsadas a quebrar el régimen democrático e imponer una dictadura. È il 1971. In Uruguay esce il saggio Le vene aperte dell'America Latina. È un'opera di devastante denuncia. Diverrà, nel giro di pochi mesi, un libro amatissimo da tutta una generazione e detestato dalle dittature. Il libro ricostruisce alcune tappe dello sfruttamento economico e umano subito dall'universo latinoamericano a favore dei centri di potere mondiali negli ultimi 500 anni. Nei paesi più poveri della terra, i bambini, per imparare a vivere, devono frequentare la scuola del mondo alla rovescia, dove apprendono che la povertà è un giusto castigo per l'inefficienza, che la disuguaglianza è una legge naturale che ha come corollari il razzismo e il maschilismo, che la realtà è quella che si vede in televisione, che il crimine è nero o giallo o di altri colori, ma mai, o quasi, bianco e così via. Il piano di studi prevede corsi obbligatori di impotenza, amnesia e rassegnazione, grazie ai quali gli oppressi del pianeta imparano a subire la realtà invece di cambiarla, a dimenticare il passato per permettere ai dittatori di ogni tempo di restare impuniti, ad accettare passivamente il futuro, perché tentare di immaginarselo è un vizio che viene regolarmente punito. Quando Le vene aperte dell'America Latina viene pubblicato, ha inizio un ventennio di dittature sanguinarie che devasteranno paesi come Cile, Argentina, Uruguay. Migliaia di ragazzi innocenti verranno torturati e uccisi in nome di un fantomatico ordine pubblico. Il libro di Galeano viene proibito da tutti i regimi. I proclami militari risuonano in tutte le città dell'Uruguay. A partire dalla fecha, il paese si encuentra bajo il controllo operazionale della giunta militare. Eppure, Edoardo Galeano, con Le vene aperte dell'America Latina, aveva vinto il sogno. Era riuscito, come diranno molti sopravvissuti alle torture, con le sue parole, a dare speranza a tutto il continente latino, quando nei suoi passaggi più dolorosi ammoniva i potenti così. Attenti ai cunicoli e nei sottoscala di quelle stesse scuole, allievi clandestini si impegnano nella rifondazione della democrazia e nel recupero della tolleranza, della solidarietà e della comunione con la natura. Sottovalutare questi piccoli combattenti sarebbe un errore, perché, come dice un adagio sudamericano, ognuno è così piccolo come la paura che prova e così grande come il nemico che si sceglie. Dall'inizio della dittatura e nei primi 3 anni di dittatura uruguaiana si suicidarono 365 soldati dell'esercito e migliaia di ragazzi morirono. Tanti bambini sono cresciuti senza famiglia. Le loro testimonianze sono state raccolte dalle televisioni argentine e uruguasce. Quelle che abbiamo scelto sono queste. Sono senza traduzione. Il primo ragazzo, orfano di padre e madre, dice: «Noi diciamo sempre che la verità è la libertà». E una ragazza subito dopo dice: «C'è una cosa che mi ha reso felice ed è stato scoprire che mia mamma, così mi hanno detto, amava il cioccolato al riso, come me». E un'altra aggiunge: «Vorrei tanto poter abbracciare mio padre». Nosotros siempre decimos que la verdad es libertad. Pero también hay muchos momentos de alegría. Como cuando me enteré que a mi mamá le gustaba el queso con chocolate como a mí. Lo primero que necesito es abrazarlo, créelo. È lontano quel primo giorno, quando Galeano, a soli 14 anni, scrive un testo ironico e dissacrante contro il potere militare uruguaiano. È lontana, come dirà lui stesso, quella vita di redazione fatta di profumi forti, di tipografie e cronisti sempre in giro a cercare notizie. Claro, me metí en una época que las cosas se hacían de otro modo, no era como ahora, ¿no? El mundo mágico de la cinta. Cominciai a fare giornalismo in un periodo magico, lontano. Il mondo del giornalismo, quello fatto di odore di piombo, di tipografie, di lettere che si imprimevano sul foglio. Oggi tutto si è ridotto al computer ed è diventato molto impersonale. Quello che io vivevo era il sapore dello stanzone della redazione. Ero bambino, avevo 14 anni. Amavo la macchina da scrivere, il ticchettio, l'odore delle sigarette. Tutto questo è cambiato. Ora viviamo in un contesto più asettico. Eso cambió. Ahora es un universo mucho más ¿cómo te diría?, más aséptico. Una vita intera trascorsa a dar voce ai deboli non ha mancato di rispetto al suo sogno, Galeano, e così ancora oggi si muove nel mondo con un senso di partecipazione enorme. Nel maggio del 2011, mentre in Spagna inizia a manifestarsi quello che sarà poi detto il movimento degli indignati, Galeano parlerà ai ragazzi e si mescolerà a loro, quasi nel completo silenzio della stampa. Ai giovani regalerà parole di amore e di rispetto. Proverà, come dirà lui stesso, un'emozione forte, sentirà l'entusiasmo come fosse la prima volta, la sua prima volta, e lo racconterà così. Parece bien que los jóvenes estén alzando en desobediencia. Io sento e credo che sia meraviglioso che i giovani si stanno ribellando a un mondo che li vuole rassegnati ad accettare il mondo tale qual è. In tutta l'America Latina c'è un problema visibile e preoccupante, che è la separazione, il divorzio tra i giovani e il sistema politico. Ovvio che quello che vogliono dimostrarci è che la politica non è solo il partito. Io non riduciria la politica all'attività dei partiti, perché la politica llega molto più allá di quello che sono i partiti. La politica è dunque l'altra protagonista di questo racconto. Credere che l'impegno sociale e civile cambierà davvero il corso della storia. E questa è la vera forza di Edoardo Galeano, che riesce a sognare e a far sognare i ragazzi. Se non puoi sognare sei morto, dirà chi gli chiede del senso della vita. Posizioni difese anche durante il golpe militare e che costringeranno Edoardo Galeano alla galera prima e all'espulsione dal paese poi. Ci vorranno anni perché il mondo comincia ad occuparsi di chi è morto sotto tortura, delle migliaia di ragazzi scomparsi. Nel 1988, in un concerto straziante, Peter Gabriel e Sting salgono sul palco a Buenos Aires e cantano They Dance Alone, ballano da soli. Si rivolgono alle mogli, ai padri, ai figli dei desaparecidos. Sul palco salgono anche le madri dei desaparecidos argentini, cileni, uruguayani. Singhiozzano alle spalle di Sting le madri. Piange Peter Gabriel che non riesce a cantare e piangono davanti a loro le migliaia di ragazzi venuti a sentire il concerto. Un giorno, canta Sting, canteremo liberi. Un giorno rideremo di gioia e balleremo. Continente senza pelle, con le vene aperte, appunto, quello che racconta questa canzone. Un continente latino che ha perso i suoi giovani e vivrà per sempre impermeato in questa malinconia, come racconterà stupendamente Marco Bechis nel film Garage Olimpo. Eran dell'esercito! E come sa di creare l'esercito, signora? Non levanti la voce, por favor. Sequestrato il 28 d'ottobre. Un cavo nel mi casa. Eran muchos. Nel 1973 Edoardo Galeano finisce in carcere. Ha scritto cose scomode. È un intellettuale che smuove le coscienze e dalla prigione verrà costretto all'esilio. Ritornerà in Uruguay soltanto 12 anni dopo. Di quella prima volta, di quel rientro in patria, di quella sensazione, Galeano conserverà sempre un ricordo forte. L'Uruguay, l'Argentina e il Cile stanno ancora asciugandosi le lacrime per i crimini avvenuti negli anni 70. Galeano, lo scrittore ragazzino, corre in giro per il mondo ancora oggi a ricordare a tutti che loro sono sopravvissuti alla violenza e alle parole come quelle usate dal dittatore uruguaiano Videla. Prima elimineremo tutti i sovversivi, poi elimineremo i loro collaboratori, poi i loro simpatizzanti, poi chi rimarrà indifferente e infine elimineremo gli indecisi. Oggi l'Uruguay è libero. Il suo presidente, José Alberto Pepe Cordano, è stato prigioniero di Videla ed è forse la risposta a tutto. I ragazzi a Montevideo oggi cantano e ballano per strada. La prima volta si ferma qui. Le puntate sono disponibili per il riascolto sul sito di radio24.it. Se volete scriverci invece l'indirizzo è laprimavolta@radio24.it. La prossima settimana sarà con noi Alessandro Quasimodo, il figlio di Salvatore, Nobel per la letteratura. Buona giornata a tutti, da Cristina Carpinelli.